L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Quindicesima puntata. Fior di spina e Ricciardetto. Lettura poetica di Alberto Lupo. Narratore Gianni Bonagura. Sconfitti finalmente gli incantesimi del mago Atlante, Ruggero e Bradamante si ritrovano, ma anche stavolta per poco. Bradamante vorrebbe condurre subito Ruggero al castello di Montalbano perché la chieda in sposa a suo padre e riceva il battesimo. Ruggero è ben d'accordo, ma sopravviene una damigella in lacrime a implorare aiuto per un giovane condannato a morire sul rogo. Costui era imputato d'essersi introdotto sotto vesti femminili alla corte d'una principessa di Spagna ed esserne in segreto divenuto l'amante. Scoperto l'inganno, ora doveva salire al patibolo. A quella notizia Bradamante impallidisce, come al sospetto che quella storia in qualche modo la riguardi. Accettano di farsi guidare dalla damigella. Galoppano in fretta, perché appena sbrigata questa impresa, devono raggiungere Montalbano per non ritardare ancora le nozze. Ma ogni volta che i nostri eroi hanno fretta, ci si mette di mezzo qualche complicazione. Passano davanti al castello di Pontiero e devono accettare una sfida con 4 cavalieri. Lì Bradamante prende da una parte e Ruggero dall'altra. A un certo punto egli viene raggiunto da un messo. Re Agramante, ridotto a mal partito, ordina ai suoi cavalieri sparsi per il mondo di tornare al più presto a dar manforte al campo saraceno. Ruggero sta per obbedire al richiamo del dovere, ma ricorda che sei impegnato a salvare il giovane condannato. Dunque, per prima cosa salverà il condannato, poi andrà a fare il suo dovere di buon saraceno e dopo ancora si convertirà al cristianesimo e sposerà Bradamante. A seguirlo passo passo, Ruggero pare in preda a una continua incertezza, ma è solo un'impressione. Leale capitano, cavaliere errante, fidanzato, predestinato dagli astri, futuro capostipite degli estensi, Ruggero è soprattutto un uomo con molte cose da fare. I suoi impegni s'accumulano e i suoi programmi per l'avvenire sono sempre sovraccarichi. Irrompe nella piazza del paese proprio mentre stanno portando il condannato al patibolo. Il boia gli toglie la benda e Ruggero, con un tuffo al cuore, riconosce la sua Bradamante. Deve essere giunta lì prima di lui e si è subito cacciata nei pasticci. Ruggero irrompe tra la folla, raggiunge gli sbirri e ne fa strage. La supposta Bradamante, liberata, gli dice: «Grazie, cavaliere, dimmi il tuo nome perché io possa esserti riconoscente in eterno». «Come?» fa Ruggero. «Noi due non ci siamo già conosciuti». «La solita storia», si sente rispondere. «Anche tu mi scambi con mia sorella. Io sono Ricciardetto di Montalbano, fratello gemello di Bradamante». Non è dal pozzo ancor lontano un miglio che venire un corrier vede in gran fretta di quei che manda di Troiano il figlio ai cavalieri onde soccorso aspetta, dal qual ode che Carlo in tal periglio la gente saracina tien ristretta che se non è chi tosto le dia ita, tosto l'onor vi lascerà o la vita. Fu da molti pensier ridotto in forse Ruggier che tutti la salirono un tratto, ma qual per lo miglior dovesse torse, né luogo avea né tempo a pensar atto. Lasciò andare il messaggio, e il freno torse laddove fu da quella donna tratto, ch'ad ora ad ora in modo egli affrettava, che nessun tempo d'indugiarle dava. Quindi, seguendo il camin preso, venne, già declinando il sole, ad una terra che il re Marsiglio in mezzo Francia tenne, tolta di man di Carlo in quella guerra. Né al ponte né alla porta si ritenne, che non gli niega alcuno il passo o serra, benché intorno al rastrello e in sulle fosse gran quantità d'uomini ed arme fosse. Perché era conosciuta dalla gente quella donzella ch'avea in compagnia, fu lasciato passar liberamente, né domandato pure onde venia. Giunse alla piazza, e di fuoco lucente e piena la trovò di gente ria, e vide in mezzo star con viso smorto il giovine dannato ad esser morto. Ruggier, come gli alzò gli occhi nel viso, che chino a terra e lacrimoso stava, di veder Bradamante gli fu avviso, tanto il giovine a lei rassimigliava. Più d'essa gli parea, quanto più fiso al volto e alla persona il riguardava, e fra sé disse: «O questa è Bradamante, o ch'io non son Ruggier com'era inante. Per troppo ardir si sarà forse messa del garzon condannato alla difesa, e poi che mal la cosa le è successa, ne sarà stata, come io veggo, presa. Deh, perché tanta fretta, che con essa io non potei trovarmi a questa impresa? Ma Dio ringrazio che ci son venuto, ch'a tempo ancora io potrò darle aiuto». E senza più indugiar la spada stringe, ch'avea all'altro castello rotta la lancia, e addosso il vulgo inerme il destrier spinge per lo petto, per i fianchi e per la pancia. Mena la spada a cerco, e da chi cinge la fronte, a chi la gola, a chi la guancia. Fugge il popol gridando, e la gran frotta resta o sciancata o con la testa rotta. Come stormo d'augei, chi in ripa un stagno vola sicuro e a sua pastura attende, s'improvviso dal ciel falcon grifagno gli dà nel mezzo ed un ne batte o prende, si sparge in fuga, ognun lascia il compagno e dello scampo suo cura si prende, così veduto avreste far costoro, tosto che il buon Ruggier diede fra loro. A quattro o sei dai colli i capi netti levò Ruggier, chindi a fuggir fur lenti, ne divise altrettanti infine ai petti, fino agli occhi infiniti e fino ai denti. Concederò che non trovasse il metti, ma ben di ferro assai cuffi e lucenti, e se elmi fini anco vi fosser stati, così li avrebbe o poco men tagliati. La forza di Ruggier non era quale or si ritrovi in cavalier moderno, né in orso, né in leon, né in animale altro più fiero o nostrale o d'esterno. Forse il tremuoto le sarebbe uguale, forse il gran diavol, non quel dello inferno, ma quel del mio signor, che va col fuoco ch'a cielo e a terra e a mar si fa dar loco. D'ogni suo colpo mai non cadea manco d'un uomo in terra, e le più volte un paio, e quattro a un colpo e cinque n'uccise anco, sì che si venne tosto al centinaio. Tagliava il brando che trasse dal fianco come un tenero latte il duro acciaio. Falerina, per dar morte ad Orlando, fe nel giardin d'Orgagna il crudel brando. Averlo fatto poi ben le rincrebbe, che il suo giardin disfar vide con esso. Che strazio dunque, che ruina debbe far or chi in man di tal guerriero è messo. Se mai Ruggier furor, se mai forza ebbe, se mai fu l'alto suo valore espresso, qui l'ebbe, il pose qui, qui fu veduto, sperando dare alla sua donna aiuto. Qual fa la lepre contra i cani sciolti, facea la turba contra lui riparo. Quei che restaro uccisi furo molti, furo infiniti quei che in fuga andaro. Avea la donna intanto i lacci tolti, cambe le mani al giovine legaro, e come poté meglio presto armollo, gli diè una spada in mano e un scudo al collo. Egli che molto è offeso, più che puote si cerca vendicar di quella gente, e qui vi son sì le sue forze note, che riputarsi fa prode valente. Già avea attuffato le dorate ruote il sol nella marina d'occidente, quando Ruggier vittorioso e quello giovine seco uscir fuor del castello. Quando il garzon sicuro della vita con Ruggier si trovò fuor delle porte, gli rende molta grazia ed infinita con gentil modi e con parole accorte, che non lo conoscendo a dargli aita si fosse messo a rischio della morte, e pregò che il suo nome gli dicesse per sapere a chi tanto obbligo avesse. «Veggo», dicea Ruggier, «la faccia bella e le belle fattezze e il bel sembiante, ma la suavità della favella non odo già della mia Bradamante. Né la relazion di grazie è quella che ella usar debba al suo fedele amante. Ma se pur questa è Bradamante, or come ha si tosto in oblio messo il mio nome?» Per ben saperne il certo, accortamente Ruggier le disse: «Io v'ho veduto altrove, ed ho pensato e penso, e finalmente non so né posso ricordarmi dove. Ditemel voi, se vi ritorna a mente, e fate che il nome anco udirmi giove, a ciò che saper possa a cui mia aita dal fuoco abbia salvata oggi la vita. Che voi m'abbiate visto esser potria, rispose quel, che non so dove o quando. Ben vo pel mondo anch'io la parte mia, strane avventure or qua or là cercando. Forse una mia sorella stata fia, che veste l'arme e porta al lato il brando, che nacque meco, e tanto mi somiglia che non ne può discerner la famiglia. Né primo, né secondo, né ben quarto sete di quei che errore in ciò preso hanno, né il padre, né i fratelli, né chi a un parto ci produsse ambi, scernere ci sanno. Gli è ver che questo crin raccorcio e sparto ch'io porto come gli altri uomini fanno, ed il suo, lungo e in treccia al capo avvolta, ci solea far già differenzia molta. Ma poi che un giorno ella ferita fu nel capo, lungo saria a dirvi come, e per sanarla un servo di Gesù a mezza orecchia le tagliò le chiome, alcun segno tra noi non restò più di differenzia, fuor che il sesso e il nome. Ricciardetto son io, Bradamante ella, io fratel di Rinaldo, essa sorella. E se non vi increscesse l'ascoltarmi, cosa direi che vi faria stupire, la qual m'occorse per assimigliarmi a lei, gioia al principio e al fin martire. Ruggero, il qual più graziosi carmi, più dolce istoria non potrebbe udire che dove alcun ricordo intervenisse della sua donna, il pregò sì che disse. Se Ruggero porta con sé un'aura di incertezza, Bradamante, che è la decisione in persona, propaga un'incertezza di tipo diverso. È una donna in panni maschili e chi la vede per la prima volta la scambia regolarmente per un cavaliere. Con questo fratello gemello le cose si complicano ancora. Ricciardetto è un cavaliere che viene scambiato per una amazzone, essendo identico all'amazzone che viene scambiata per un cavaliere. Nella struggente storia che Ricciardetto racconta a Ruggero, i confini tra i sessi sono sempre lì lì per dissolversi. Eppure Bradamante è più donna che mai. Ma è una donna altra da quelle del suo mondo e del suo tempo, una donna d'una civiltà d'amazzoni, e gli equivoci che nascono attorno a lei non la riguardano, quasi non la sfiorano. Fior di Spina, figlia del saraceno Marsilio, re di Spagna, andando a caccia, aveva visto Bradamante che dormiva su di un prato. A quel tempo la guerriera, per medicarsi d'un colpo di lancia ricevuto in battaglia, s'era fatta tagliare la lunga chioma. Fior di Spina la crede un cavaliere e se ne innamora. Quando Bradamante le chiarisce l'equivoco, la principessa si dispera. Vuole comunque ospitarla al suo castello e per dissipare ogni dubbio nella sua corte fa vestire la guerriera di panni femminili. Accadde a questi dì che pei vicini boschi passando la sorella mia, ferita da uno stuol dei saracini che senza l'elmo la trovar per via, fu di scorciarsi a stretta i lunghi crini, se sanar volse d'una piaga ria ch'avea con gran periglio nella testa, e così scorcia errò per la foresta. Errando giunse ad una ombrosa fonte, e perché afflitta e stanca ritrovosse, dal destrier scese e disarmò la fronte, e sulle tenere erbe addormentosse. Io non credo che fabula si conte che più di questa istoria bella fosse. Fior di Spina di Spagna soprarriva che per cacciar nel bosco ne veniva. E quando ritrovò la mia sirocchia tutta coperta d'arme, eccetto il viso, ch'avea la spada in luogo di conocchia, le fu vedere un cavaliero a viso. La faccia e le viril fattezze adocchia tanto che se ne sente il cor conquiso. La invita a caccia, e tra l'ombrose fronde lunge dagli altri al fin seco s'asconde. Poi che la seco in solitario loco, dove non teme d'esser sopraggiunta, con atti e con parole a poco le scopre il fisso cuor di grave punta. Con gli occhi ardenti e coi sospir di fuoco le mostra l'alma di disio consunta. Or si scolora in viso, or si raccende, tanto s'arrischia ch'un bacio ne prende. La mia sorella avea ben conosciuto che questa donna in cambio l'avea tolta, né dar poteale a quel bisogno aiuto, e si trovava in grande impaccio avvolta. Con modo accorto ella il parlar ridusse, che venne a dir come donzella fusse, che gloria, qual già Ippolita e Camilla, cerca nell'arme, e in Africa era nata in lito al mar nella città d'Arzilla, a scudo e a lancia da fanciulla usata. Per questo non si smorza una scintilla del fuoco della donna innamorata. Questo rimedio all'alta piaga è tardo, tanta ve amor cacciato innanzi il dardo. Per questo non le par men bello il viso, men bello sguardo e men belli i costumi, perciò non torna il cor che già diviso da lei godea dentro gli amati lumi. Vedendola in quell'abito le avviso che può far che il desir non la consumi, e quando che ella è pur femmina pensa, sospira e piange e mostra doglia immensa. Chi avesse il suo ramarico e il suo pianto quel giorno udito, avria pianto con lei. Quai tormenti, dicea, furon mai tanto crudel che più non sian crudeli i miei. D'ogni altro amore, o scelerato o santo, il desiato fin sperar potrei. Saprei partir la rosa dalle spine, solo il mio desiderio è senza fine. Se pur volevi, amor, darmi tormento che ti increscesse il mio felice stato, d'alcun martir dovevi star contento, che fosse ancor negli altri amanti usato. Né tra gli uomini mai, né tra l'armento, che femmina mi femmina ho trovato. Non parla donna all'altre donne bella, né a cervi e cervia, né all'agnelle agnella. Così si duole, e si consuma ed ange la bella donna, e non s'accheta in fretta. Talor si batte il viso, e il capel frange, e di sé contra sé cerca vendetta. La mia sorella per pietà ne piange, ed è a sentir di quel dolor constretta. Del folle van disio si studia trarla, ma non fa alcun profitto, e invano parla. Ella ch'aiuto cerca e non conforto, sempre più si lamenta e più si duole. Era del giorno il termine ormai corto, che roseggiava in occidente il sole, ora opportuna da ritrarsi in porto a chi la notte al bosco star non vuole, quando la donna invitò Bradamante a questa terra sua poco distante. Non le seppe negar la mia sorella, e così insieme ne vennero al loco dove la turba scelerata e fella posto m'avria se tu non veri al fuoco. Fece là dentro fior di spina bella la mia sirocchia accarezzar non poco, e rivestita di femminil gonna conoscer fea ciascun ch'ella era donna. Però che conoscendo che nessuno util traea da quel virile aspetto, non le parve anco di voler ch'alcuno biasmo di sé per questo fosse detto. Fello anco a ciò che il mal c'avea da l'uno virile abito errando già concetto, ora con l'altro discoprendo il vero, provassi di cacciar fuor del pensiero. Fior di spina la notte non può dormire. Prega il dio dei saraceni che con un miracolo trasformi Bradamante in un uomo. S'assopisce e sogna. Le pare che il miracolo sia avvenuto, ma subito si risveglia e piange. Al mattino Bradamante non vede l'ora di indossare di nuovo la sua armatura e di lasciare il castello. Fior di spina la saluta tristemente e le regala una sopravveste ricamata dalle sue mani e un cavalluccio spagnolo. Al castello di Montalbano, la madre e i fratelli di Bradamante erano già in pena quando la vedono rincasare. «Bradamante, cosa hai fatto? E i capelli? E questa vesticciola tutta fronzoli?» E la guerriera si mise a raccontare. Chi stava a sentire tutto orecchi era suo fratello Ricciardetto, il quale aveva avuto già occasione di vedere Fior di Spina in feste e ambascerie e sapeva che era una bellissima ragazza. L'inganno è presto architettato. «Zitto, zitto!» Quella notte egli porta via alla sorella armatura, sopravveste e cavallo e si mette in strada per il castello di Fior di Spina. Quando lo vedono, tutta la corte si mette in festa. È tornata Bradamante. Quanti prieghi la notte, quanti voti offerse al suo Macone e a tutti i dei che con miracoli apparenti e noti mutassero in miglior sesso costei. Ma tutti vede andar d'effetto voti e forse ancora il ciel ridea di lei. Passa la notte e Febo il capo biondo traea del mare e dava luce al mondo. Poi che il divenne che lasciaro il letto, a Fior di Spina s'augumenta doglia, che Bradamante ha del partir già detto, cuscir di questo impaccio avea gran voglia. La gentil donna un ottimo ginetto in don da lei vuol che partendo toglia guernito d'oro ed una sopravesta che riccamente ha di sua man contesta. Accompagnolla un pezzo fior di spina, poi fe piangendo al suo castello ritorno. La mia sorella si ratto cammina che venne a Montalbano anco quel giorno. Noi suoi fratelli e la madre meschina tutti le siamo festeggiando intorno, che di lei non sentendo avuto forte dubbio e tema avevan della sua morte. Mirammo al trar dell'elmo al mozzo crine che intorno al capo prima s'avvolgea. Così le sopraveste peregrine ne fer meravigliar chi indosso avea. Ed ella il tutto dal principio al fine narronne come dianzi io vi dicea, come ferita fosse al bosco e come lasciasse per guarir le belle chiome e come poi dormendo in ripa all'acque la bella cacciatrice sopraggiunse a cui la falsa sua sembianza piacque e come dalla schiera la disgiunse. Del lamento di lei poi nulla tacque che di pietà dell'anima ci punse e come alloggiò seco e tutto quello che fece finché ritornò al castello. Di fior di spina gran notizia ebbi io, che in Siragozza e già la vidi in Francia e piacquer molto all'appetito mio i suoi begli occhi e la polita guancia, ma non lasciai fermarvi sì il disio che l'amar senza speme è sogno e ciancia. Or quando in tal ampiezza mi si porge l'antiqua fiamma subito risorge. Di questa speme amore ordisce i nodi che d'altre fila ordir non li potea, onde mi piglia e mostra insieme i modi che dalla donna avrei quel ch'io chiedea. A succeder saran facil le frodi, che come spesso altri ingannato avea la simiglianza co di mia sorella, forse anco ingannerà questa donzella. Faccio o non faccio? Al fin mi par che buono sempre cercar quel che diletti sia. Del mio pensier con altri non ragiono, né vo chi in ciò consiglio altri mi dia. Io vo la notte ove quell'arme sono che s'avea tratte la sorella mia. Tolgole, e col destrier suo via camino, né sto aspettar che luca il matutino. Io me ne vo la notte, amore e duce, a ritrovar la bella fior di spina, e v'arrivai che non era la luce del sole ascosa ancor nella marina. Beato è chi correndo si conduce prima degli altri a dirlo alla regina, da lei sperando per l'annunzio buono acquistar grazia e riportarne dono. Tutti m'aveano tolto così in fallo com'hai tu fatto ancor per Bradamante, tanto più che le vesti ebbi e il cavallo con che partita era ella il giorno inante. Vien fior di spina di poco intervallo con feste incontra e con carezze tante e con si allegro viso e si giocondo che più gioia mostrar non potria al mondo. Appena Ricciardetto, sotto le spoglie di Bradamante, si trova a tu per tu con Fiordispina, le spiega la ragione del suo rapido ritorno. «Me n'ero appena partita dal tuo castello, piena di tristezza per esser nata donna, quando ho sentito un grido. In un laghetto qua vicino, un fauno, che pescava alla lenza, aveva tirato su una ninfa e stava per mangiarsela. Con un colpo di spada uccisi il fauno. La ninfa saltò in acqua e disse che per ricompensarmi avrebbe esaudito qualsiasi mio desiderio». «Esser cambiata in uomo!» esclamai. La ninfa mi spruzzò dell'acqua del laghetto, e così eccomi ritornata a te. Anzi, ritornato. Poi che donne e donzelle ormai levate si furo e paggi e camerieri intorno, essendo ambe nel letto dispogliate coi torchi accesi che parea di giorno, io cominciai. Non vi maravigliate, Madonna, se si tosto a voi ritorno, che forse v'andavate immaginando di non mi riveder fin Dio sa quando. Dirò prima la causa del partire, poi del ritorno l'udirete ancora. Se il vostro ardor, Madonna, intiepidire potuto avessi col mio far dimora, vivere in vostro servizio e morire voluto avrei, né starne senza un'ora. Ma visto quanto il mio starvi nocessi, per non poter far meglio, andare lessi. Fortuna mi tirò fuor del camino in mezzo un bosco d'intricati rami, dove odo un grido risonar vicino come di donna che soccorso chiami. V'accorro, e sopra un lago cristallino ritrovo un fauno ch'avea preso agli ami in mezzo l'acqua una donzella nuda, e mangiarsi il crudella volea cruda. Colà mi trassi, e con la spada in mano, perché aiutar non la potea altrimenti, tolsi di vita il pescator villano. Ella saltò nell'acqua immantinente. Non m'avrai, disse, dato aiuto in vano. Ben ne sarai premiato e riccamente quanto chieder saprai, perché son ninfa che vivo dentro a questa chiara linfa. E do possanza far cose stupende e sforzar gli elementi e la natura. Chiedi tu, quanto il mio valor s'estende, poi lascia me di satisfarti cura. Dal ciel la luna al mio cantar discende, s'agghiaccia il fuoco e l'aria si fa dura, ed ho talor con semplici parole mossa la terra, ed ho fermato il sole. Non le domando a questa offerta unire tesor né dominar popoli e terre, né in più virtù né in più vigor salire, né vincer con onor tutte le guerre, ma sol che qualche via donde il desire vostro s'adempia mi schiuda e diserre. Né più le domando un altro effetto, ma tutta al suo giudicio mi rimetto. Ebbi le appena mia domanda esposta, ch'un'altra volta la vidi attuffata, né fece al mio parlare altra risposta che di spruzzar ver me l'acqua incantata, la qual non prima al viso mi s'accosta ch'io non so come son tutta mutata. Io il veggo, io il sento e appena vero parmi, sento in maschio di femmina mutarmi. Da allora, Ricciardetto prese a vivere una doppia vita nel castello di Fiordispina. Di giorno vestiva panni femminili e veniva chiamato Bradamante. Di notte ritornava Ricciardetto a tu per tu con la principessa, finché non era stato scoperto e imprigionato. E sarebbe morto sul rogo se Ruggero, di nuovo scambiandolo per sua sorella, non l'avesse liberato. Abbiamo trasmesso la 15ª puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.